sto baccano, che succede? È la stampa, Belletta, la stampa. La rassegna stampa di Radio 24, a cura di Bruno Perini. E tu non ci puoi far niente, niente. L'allarme FAO. Altri 40 milioni a rischio fame. Secondo il nuovo rapporto dell'Agenzia ONU, sono in 963 milioni nel mondo a soffrire la denutrizione. Per il direttore generale Jacques Diouf servono 30 miliardi di dollari l'anno per arginare l'emergenza. Nonostante i prezzi dei cereali siano calati del 50% rispetto a qualche mese fa, i costi restano molto più alti in confronto agli anni precedenti. In Africa la situazione è più grave. Nel continente nero uno su tre è cronicamente affamato. Dagli studi di Radio 24 un saluto da Bruno Perini, in regia con noi Carmelo Lauricella. È il quotidiano Avvenire che sceglie, a differenza di tutti gli altri quotidiani, di aprire la prima pagina e di offrire un ampio servizio sul rapporto FAO. La chiamano insicurezza alimentare, è un destino di morte, e la FAO conferma, continua a dilagare. Sempre più fame, la crisi dimenticata. Leggiamo da un servizio di Francesca Bertoldi: l'impennata globale dei prezzi dei generi alimentari ha messo altri 40 milioni di persone nella lunga lista delle persone che soffrono la fame, e ora di quasi un miliardo, precisamente 963 milioni, il numero delle persone denutrite nel mondo secondo il rapporto 2008 pubblicato ieri dalla FAO. E l'attuale crisi finanziaria ed economica, avverte l'agenzia dell'ONU con sede a Roma, potrebbe far lievitare ulteriormente questa cifra. Secondo il direttore generale della FAO, Jacques Diouf, servono 30 miliardi di dollari all'anno per arginare questa emergenza. 30 miliardi di dollari, spiega Diouf, sono l'8% di quanto i paesi sviluppati hanno speso nel 2007 per i sussidi all'agricoltura. Non sono nulla rispetto a quanto si spende in armamenti o quanto si sta spendendo in tutto il mondo per la crisi economica, finanziaria, è stato lo sfogo di Diouf. Non dobbiamo permettere che la crisi finanziaria ci faccia dimenticare che abbiamo ancora il problema della fame da fronteggiare, ha aggiunto Diouf, che comunque, a chi gli chiede se sia frustrato per il fatto di dover ripetere anno dopo anno le stesse cose di fronte a una situazione che invece di migliorare peggiora, risponde: non ci stanchiamo di pregare, non ci scoraggiamo, ribadendo che è tutta una questione di priorità politica. Questa qual è la priorità? I 963 milioni di persone che non hanno da mangiare o altro? Si domanda ancora il diplomatico senegalese che dal 1994 guida la FAO, e questo è l'interrogativo davvero, come dire, drammatico che viene posto da questo servizio di prima pagina del quotidiano L'Avvenire. Ora, in Africa la crisi finanziaria ed economica che si è abbattuta, diciamo, su tutto il mondo ha un solo volto, cioè quello della fame e quello della morte per fame, e se noi ci trasferiamo nei nostri, come dire, territori, cioè in Italia, se noi ci trasferiamo in Italia e nel mezzo della crisi economica finanziaria italiana, troviamo, ci spiega invece il Sole 24 Ore in prima pagina, i due volti della crisi. E da un lato una cassa integrazione crescente, record, ma anche, e questo è quello che colpisce, alberghi al completo. Già, è l'apertura del Sole: cassa integrazione record, ma anche alberghi al completo, ai massimi le vendite di elettronica di consumo. E vediamo, crisi economica a due facce. A novembre la cassa integrazione è cresciuta a tre cifre, più 253%, ma gli italiani non rinunciano a spendere per le vacanze e gli acquisti high-tech. Il ponte dell'Immacolata si è chiuso con forti incrementi di presenze, tra il 20 e il 40%, e hotel al completo in montagna, tra piste da sci e mercatini di Natale. E le vendite di elettronica di consumo hanno toccato i massimi. Sì, qui davvero c'è una forbice, quindi siamo in presenza di una forbice che viene ben rappresentata da Sole 24 Ore a pagina 4 e 5. Sulle Alpi il record dei turisti, tra il 5 e l'8 dicembre venduti sulle nevi e delle Dolomiti oltre 120.000 skipasse. Quindi diciamo davvero davvero un boom di un ceto probabilmente medio che si può permettere di andare in vacanza. E poi invece dall'altro lato, l'altro volto della crisi, più che triplicata la cassa integrazione, i dati IMSS di novembre, picco della gestione ordinaria, impennata di Marche e Valle d'Aosta. E quindi questo un servizio sul Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore invece, con un servizio di Moria Longo, parla di un'anomalia, quei titoli con sorpresa piazzati da Barclays Bank in Italia. Immaginate di comprare un'auto e di scoprire, scrive Moria Longo sulla prima pagina del Corriere, e di scoprire che il venditore, dopo essere stato pagato, vi ha sostituito il motore con gli ingranaggi di una lavatrice. La Banca Popolare di Intra ha più o meno vissuto una disavventura simile. Anni fa ha acquistato da Barclays Bank un CDO, Collateralized Debt Obligation, cioè gestito con un prestito obbligazionario con le cedole garantite da altri bond sottostanti, e poi ha scoperto che il gruppo inglese ha sostituito quasi tutti i titoli emessi in garanzia delle cedole con titoli che oggi chiameremmo tossici, cioè legati anche ai mutui subprime. Così la vicenda è finita in tribunale. La banca italiana ha fatto causa al gigante Berkshire a Londra. Ecco, che abbia ragione e se la banca inglese abbia operato in modo corretto lo deciderà il giudice Berks, risponde no comment, ma in ogni caso questa piccola storia ne racconta una più grande, spiega come il virus subprime ha contagiato il globo. E sì, e questo è un caso quindi che viene raccontato dal Sole 24 Ore, diciamo così, di mala finanza, chiamiamola così, che è quella che... E c'è tutto un servizio che apre Finanze e Mercati, il dorso finanziario del Sole, subprime con il trucco, le vittime italiane dei CDO, banche e conventi in causa contro i big stranieri. Questo il Sole 24 Ore. Ora ancora qualche secondo prima della linea, di dare la linea alle anticipazioni del GR, dobbiamo andare al tema forte, politico, giustizia, Berlusconi accelera. Questo è il quotidiano La Stampa. Pronta la proposta del governo per separare le carriere dei magistrati. Il provvedimento al prossimo Consiglio dei Ministri, Fini e Schifani al PD, riforma insieme, ma Di Pietro non ci sta. E vedremo un'intervista, tra l'altro più tardi, di Antonio Di Pietro al quotidiano Libero. Qui Augusto Minzolini scrive sulla Stampa... Due giorni fa sulla giustizia Pier Ferdinando Casini aveva usato parole che sono musica per le orecchie del Cavaliere, apertura di un tavolo di confronto tra maggioranza e opposizione sulle riforme e conseguente esclusione di Antonio Di Pietro. E dice, è il segno dei tempi che cambiano. Una volta la giustizia era il tipico argomento che veniva utilizzato dagli avversari per isolare e marginare il Cavaliere. Oggi, dopo lo scontro tra procure e il divampare dell'incendio della Tangentopoli rossa, avviene l'esatto contrario. La politica della giustizia è uno strumento nelle mani di Berlusconi per destrutturare l'opposizione. Questo scrive Augusto Minzolini sul quotidiano La Stampa. Lo Stato alla guida dell'auto, piano per entrare nei colossi General Motors e Chrysler, i cinesi vogliono la Volvo. Questo il titolo di copertina, di apertura, di prima pagina del quotidiano La Repubblica. Sì, un evento sarebbe straordinario se lo Stato americano entrasse come azionista nei giganti dell'automobile. C'è un piano di salvataggio dell'industria americana dell'auto sul quale Congresso e Casa Bianca stanno completando i negoziati e che dovrebbero essere annunciato a breve. La Pelosi ha dichiarato che sono pronti 15 miliardi di dollari per finanziarlo. Il piano prevede l'ingresso dello Stato nel capitale dei colossi General Motors e Chrysler. In cambio dei prestiti di emergenza, il governo riceverà titoli convertibili in azioni della società nella misura del 20% del valore dell'auto. E di fatto si tradurrebbe in una parziale nazionalizzazione dell'auto. Intanto i cinesi vogliono la Volvo, quindi davvero un fatto straordinario. che avrà conseguenze probabilmente positive sull'occupazione, ma insomma che sconvolge un po' la tradizionale politica statunitense. E sulla Repubblica viene affidata a Luciano Gallino invece una riflessione sulla Fiat, sul nostro colosso automobilistico. Dice: la Fiat ha prodotto nel 2007 poco più di 2,5 milioni di veicoli. Se davvero entro pochi anni sopravviveranno soltanto le imprese capaci di produrne 5-6 milioni, come ha dichiarato l'amministratore delegato Sergio Marchionne, le scelte che si aprono al gruppo torinese sembrano ristrette. È necessaria un'alleanza o una fusione con un gruppo o due che producono più di 3 milioni di unità. Questo sul quotidiano della Repubblica. Però la Repubblica affida invece ad Aldo Schiavone una riflessione un po' più ampia a proposito di Silvio Berlusconi, che diciamo è un po' anomala rispetto ad altre riflessioni che si fanno in questo momento sul quotidiano su Silvio Berlusconi. Aldo Schiavone scrive: il cavaliere fuori sintonia. Per la prima volta da molto tempo, forse addirittura da quando è entrato in politica, si è determinato un contesto per il quale Silvio Berlusconi sta uscendo di sintonia, e su una questione cruciale, con parti significative di quel popolo che finora lo ha seguito. Per 15 anni il nostro premier ha raccontato all'Italia con pochissime varianti sempre la medesima storia, la propria, offrendosi interamente in questa interpretazione corpo e anima. Ha saputo diventare la rappresentazione simbolica di se stesso, la statua vivente del suo successo, del suo vitalismo, del suo calore emotivo. Berlusconi non ha trasformato in profondità il paese, ne ha piuttosto seguito una corrente forte in un momento irripetibile. Ora questa stagione sta finendo, conclusa dall'incalzare di un disastro economico che sta mutando il corpo del paesaggio interiore e quello sociale che ci circonda. Alla fine del 2009 ci ritroveremo probabilmente con oltre 1 milione di occupati in meno, ex lavoratori senza alcuna protezione sociale. Abbiamo innanzitutto fretta, quest'Italia è completamente fuori dalla visuale del Presidente del Consiglio. Questo scrive sul quotidiano della Repubblica Aldo Schiavone. Ma se dobbiamo rimanere fermi alla parola sintonia, che viene qui utilizzata, quella sintonia che secondo Schiavone non c'è più tra Silvio Berlusconi e il paese, che sarà un paese post-crisi molto diverso da quello ottimistico di Berlusconi, questa è la tesi di Schiavone ovviamente, il quotidiano Il Giornale parla di un'altra sintonia che sta per finire, ed è proprio riferita al giornale che abbiamo appena lasciato, cioè La Repubblica. E il giornale, riprendendo una tesi che ieri c'era sul Riformista, scusate, di Giampaolo Pansa, dice: anche il partito Repubblica, cioè nel senso il partito del cosiddetto partito giornale Repubblica, è pronto a scaricare Beltroni. La difesa a oltranza delle attuali dirigenti PD non rende più, e nel quotidiano romano si pensa ormai a un cambio di linea, ed è proprio quello di cui negli ambienti giornalistici, di politici si discute, l'ipotesi di un cambio di linea del quotidiano La Repubblica. Così si arriva all'ultimo capitolo, scrive Luca Telese sul quotidiano Il Giornale, quello che riguarda il logoramento dei rapporti con il gruppo dirigente veltroniano. Qui Pansa spiega che il caso Domenici e l'incatenamento del sindaco di Firenze per protesta non sono una vicenda isolata, ma che possono costituire il prologo a un vero e proprio terremoto. A questo punto i possibili sviluppi sono due: il potere perdente, quello del PD fiorentino e nazionale, potrebbe dichiarare guerra al quotidiano di Mauro, scenario alternativo; la seconda ipotesi è che La Repubblica, soprattutto per volere dell'editore, cioè Carlo De Benedetti, dichiari sciolta un'alleanza che ormai può recarle solo danno. Questa è l'ipotesi che si discute molto in effetti dentro il quotidiano La Repubblica e che il giornale ha preso. Il quotidiano Il Giornale poi intervista un esponente della sinistra, Cesare Salvi, PD ormai senza ideali, la questione morale era già grave nel 2005. Onorevole Cesare Salvi, una vita nel PC-PDS-DS e dopo 30 anni non è più parlamentare. Un osservatorio privilegiato per parlare del Partito Democratico, li conosce tutti talmente bene, certo che li conosco bene e mi spiace che siano in crisi, ma non è sempre stato ipercritico sui suoi ex compagni? Sì, per motivazioni che ora purtroppo si stanno avverando tutte. Eppure non credo sia un bene per la democrazia che il maggior partito d'opposizione sia in default. La questione morale è stato un suo cavallo di battaglia. Era il luglio del 2005. Presentammo un documento che impegnava il partito sulla questione morale, partendo proprio da episodi di malcostume che si registravano in Campania e Calabria. Primo firmatario Giorgio Napolitano. Una Cassandra? Che accadde? Che il documento fu accolto con scalpore, poi edulcorato, fu approvato. Rimase lettera morta, almeno però da lì prendemmo le mosse assieme con Massimo Villone per scrivere un libro di discreto successo sui costi della politica, da poco ristampato. Ecco questo quindi sul quotidiano Il Giornale, che apre su una questione invece che ci interessa da vicino. Vediamo cosa. La beffa, i tassi scendono, i mutui no. Nonostante i tagli della BCE, le banche riducono le rate a rallentatore, i consumatori guadagnano alle spalle di famiglie e piccole imprese. Ecco che cosa possiamo fare per evitare brutte sorprese. Questo dal quotidiano Il Giornale. Dal giornale ci spostiamo a Libero, vi dicevo, a parte che c'è curioso il titolo di Libero di prima pagina, Silvio, non guardare la TV. Napolitano a Berlusconi. Il cavaliere sale al colle e si sfoga con il capo dello Stato. Ma che dialogo con il Partito Democratico? I loro comici mi insultano e il presidente gli replica: ignorali. Chiamiamolo pure il monito di Giorgio Napolitano, ma non aspettiamoci tiritere sulle riforme. Il dialogo, il rispetto reciproco tra maggioranza e opposizione, la volontà di contribuire insieme al bene del paese e cose simili. Sì, c'è stato anche questo nel pranzo che ieri si è svolto al Quirinale tra il capo dello Stato e Silvio Berlusconi, che era accompagnato da diversi ministri, oltre, scusate che vado a pagina 4, oltre all'inseparabile Gianni Letta. Ma il consiglio finale con cui il capo dello Stato ha congedato il Premier aveva tutt'altro oggetto. Riguardava la televisione e quegli inguardabili, a giudizio del Cavaliere, programmi di intrattenimento che il RAI vanno per la maggiore, con tutti quei comici di sinistra che si divertono a dileggiare di continuo il Presidente del Consiglio. Ed ecco il monito: Silvio, non vale la pena prendersela, così fai come faccio io. Non guardare la televisione, questo sarebbe stato il monito. Ma vi dicevo, il quotidiano Libero intervista Antonio Di Pietro, la cosiddetta pecora nera, quella che tutti dicono, non sono fatte le riforme senza Di Pietro. E vediamo cosa dice Antonio Di Pietro a Libero. Gli indagati del PD: mi stupisce solo il ritardo. Il leader dell'Italia dei Valori attacca: la situazione più grave del 92 sulle elezioni. Se vinco in Abruzzo è un segnale all'Italia e a Veltroni. Accordi con l'UDC, con Tabacci tratto, con Cuffaro o Cuffaro no. Galvanizzato da sondaggi che danno la sua Italia dei Valori in salita, fiducioso di una vittoria in Abruzzo, per niente stupito delle indagini che coinvolgono esponenti del PD, combattivo appena sente parlare di riforma della giustizia. Tra un po' non servirà nemmeno più. Se vanno avanti a tagliare le spese per i tribunali alla velocità del 20% all'anno, tra 5 anni chiuderanno. Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori, si prepara una settimana decisiva. Nel PD si discute della questione morale, una dozzina di loro amministratori sono finiti sotto inchiesta. Se l'aspettava? Non mi piace parlare di questione morale, ma non sono per niente sorpreso. La sorpresa semmai sta nel fatto che solo oggi si parli di qualche diessino coinvolto nelle indagini. Dagli anni 90 dico che il malcostume è trasversale e coinvolge tutti i partiti. Ma scusi, chi doveva parlarne se non i magistrati? Il magistrato è come il chirurgo, opera quando il tumore ormai si è manifestato. Bisognava fare un'attività di prevenzione, la classe politica doveva farlo. E poi ancora dice, insomma, quando Chiesa e Poggiolini sono finiti in galera, l'opinione pubblica vede quell'atto come un atto di giustizia. Adesso, a furia di criminalizzare la magistratura, sembra che la colpa sia di chi scopre i reati e non di chi li commette, dice Antonio Di Pietro in questa lunga intervista al quotidiano Libero, che insomma esprime, fa parlare il PM e ancora dice una volta durante Tangentopoli i politici finivano in galera, molti di questi li ha portati dentro lei, perché non succede più? Una volta era accettata l'idea che chi ruba deve pagare, ma lei pensa davvero che esiste una nuova P2 che coinvolge militari, magistrati, politici, Vaticano, come sostiene Luigi De Magistris? Soltanto un'inchiesta approfondita poteva accertarlo, ma risolvere la faccenda in maniera extraprocessuale è una missione di colpa del sistema, dimostra che qualcuno ha la coda di paglia. Questo Antonio Di Pietro sul quotidiano Il Riformista. Io volevo ricordarvi, sul quotidiano La Stampa vi è un servizio sul generale Speciale, sì, che sembra sia nei guai. Sì, Guido Ruotolo scrive: Speciale alla sbarra per l'aereo delle spigole. L'ex comandante della Guardia di Finanza, in cui si è discusso molto del suo contrasto con Vincenzo Visco, rischia fino a 10 anni. Il colpo del K.O. gli arriva da una spigola, anzi da qualche cassetta di spigole. Una vergogna a leggere l'avviso della conclusione delle indagini recapitato dal procuratore militare Antonio Intelisano all'ex comandante generale della Guardia di Finanza Roberto Speciale, oggi senatore del Popolo della Libertà. Per quelle spigole fatte arrivare da Roma su una TR-42 della Finanza il 26 agosto del 2005 per allietare le cene di famiglia allargate da amici in vacanza sulle Alpi, Speciale rischia fino a 10 anni di carcere. Le ipotesi di reato contestate sono infatti quelle di peculato militare, di imbarco abusivo di merci e passeggeri su mezzi militari, di concorso in forzata consegna aggravata. Questo si legge sul quotidiano La Stampa, a firma Guido Ruotolo. Contenere i PM, ecco il piano del governo, la bozza Alfano modifica il processo penale, obiettivo stop ai teoremi investigativi. Questo lo leggiamo sul quotidiano Il Messaggero ed è Claudio Sardo che ci spiega qual è l'obiettivo che ha in mente il governo. Polizia più autonoma. Ora l'obiettivo del Premier Berlusconi e del Guarda Sicilia Alfano è approvare nell'ultimo Consiglio dei Ministri prima di Natale un disegno di legge che delimiti le competenze del pubblico ministero e restituisca autonomia alla polizia giudiziaria. Il testo tocca diversi punti del processo penale, ma soprattutto si propone di bloccare i cosiddetti teoremi investigativi. Il PM deve agire solo sulla base di chiare notizie di reato e non per cercare i reati. La data in agenda è venerdì 19 dicembre. La stessa della direzione del PD. Il Cavaliere prova a sfruttare due vantaggi: il momento di discredito della magistratura, seguito dallo scontro tra il procuratore di Salerno e Catanzaro, e le polemiche interne all'opposizione che i risultati in Abruzzo potrebbero anche accentuare. Ecco questo, scrive Il Messaggero. Le frenate di AN e Lega in vista del CDM del 19, ma il governo fa leva sull'apertura di Violante, che ieri ha detto che i magistrati hanno troppo potere in un'intervista. Ora, sul quotidiano Il Manifesto, Sara Menafra intervista un magistrato. Bruno Tinti, procuratore aggiunto a Torino e autore per Chiare Lettere di Toghe Rotte, ha già in testa la sua durissima sentenza. Il ministro della giustizia, chiede Sara Menafra, ha detto che restituire alla polizia giudiziaria maggiore autonomia dai pubblici ministeri non vuol dire tagliare le unghie alla magistratura inquirente. Lei però non mi pare molto tranquillizzato, perché quello che dice il ministro, risponde il magistrato Bruno Tinti, procuratore aggiunto a Torino, come vi dicevo, non è vero, è una delle tante bugie che usano i rappresentanti di questo governo. Dicono di non voler limitare le inchieste e poi aggiungono che i PM hanno troppo potere e bisogna intervenire. Come si chiama questo? La verità è che hanno trovato il modo per sottoporre il PM all'esecutivo senza modificare la Costituzione. Nel momento in cui non ha il controllo diretto sulla polizia giudiziaria e deve attendere che sia la Procura Generale a trovare i reati che lui dovrà perseguire, il magistrato non può far altro che stare fermo ed aspettare le notizie. E siccome la polizia dipende dall'esecutivo, cambiare il rapporto tra PM e PG ottiene lo stesso risultato a cui il governo mira da tempo. Scusi, ma prima della riforma dell'89 come funzionava? Le indagini non si facevano? Il PM chiedeva alla questura o al comandante dei carabinieri di fare un'indagine, ma non sapeva nulla di come venisse sviluppata l'inchiesta, di quanti testimoni fossero stati sentiti e di chi veniva trascurato, nei tempi che la polizia giudiziaria stabiliva che gli veniva dato un rapporto da valutare. Ovviamente alcune indagini erano ben pettinate, mentre altre le erano pochissime. Insomma, critico, molto critico Bruno Tinti nell'intervista che gli ha fatto sul Manifesto Sara Menafra di fronte ai progetti governativi di riforma della giustizia. Questo leggiamo il Manifesto, tra altre cose invece apre su tutt'altro, lotta greca, ed è quarto giorno di scontri ad Atene, in migliaia funerali di Alex Grigoropoulos, il quindicenne ucciso dalla polizia sabato scorso. Poi la protesta esplode all'uscita del cimitero e si estende a tutta la città. Il governo insiste con il pugno di ferro, l'opposizione chiede le sue dimissioni. Oggi lo sciopero generale bloccherà tutta la Grecia. Poi mi cade l'occhio sul fatto che addirittura il 19 dicembre ci sarà uno speciale manifesto. Il manifesto chiede 50 euro per quel giorno, il 19 dicembre, va in edicola e chiede al suo pubblico affezionato 50 euro. Ora, tornando invece al tema giustizia, il Corriere della Sera intanto pone la questione della pace, se così si può chiamare, se mai c'è stata guerra, tra Massimo D'Alema e Walter Veltroni. La questione morale non c'è, Veltroni e D'Alema all'attacco, comunicato congiunto, tutto uniti contro una campagna pretestuosa. Aveva detto Berlusconi, oggi si dimostra che la sinistra non aveva e non ha l'esclusiva dell'etica, la questione morale è innegabile che ci sia, c'è assolutamente nel PD. Queste parole di Berlusconi, replica di D'Alema e del partito, anzi nel comunicato congiunto, vi sono episodi preoccupanti da non sottovalutare, ma è del tutto pretestuosa la campagna tesa a delegittimare il PD e a investire di una questione morale che riguarda anche e soprattutto la destra. Il Corriere della Sera, oltre a affidare a Piero Stellino il tema della riforma della giustizia, doveri di governo, va a intervistare il compagno G. Allora, per chi ha fatto il cronista giudiziario durante Tangentopoli si ricorderà che compagno G è il cosiddetto compagno G, è Primo Greganti, uno degli imputati, uno delle sotto inchiesta durante Tangentopoli, appartenenti al PC, che aveva la prerogativa di non aver assolutamente parlato di nulla, insomma, proprio il silenzioso compagno G. No, non siamo nel 93, dice Greganti, siamo messi molto peggio, la situazione è diversa per il semplice fatto che è più grave, mai così grave direi. Nel 93 venivano meno le ragioni storiche dei partiti e la magistratura indagava sulla corruzione, qui è la politica nel suo complesso a franare e rivelare un'inadeguatezza drammatica dei partiti e anche delle istituzioni. Siamo al salvisi chi può, ci vorrebbe tenuta, invece temo che stiano saltando i nervi. Nel 93 Primo Greganti era in galera e in silenzio il compagno G divenne un simbolo, parve allora un capro espiatorio che si caricava delle colpe del suo partito, il PC. Per alcuni divenne un eroe, per altri il testimone di una corresponsabilità mai provata sino in fondo. Questo scrive Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera a proposito di Primo Greganti, ma c'è anche un'intervista a Nordio, il magistrato. Nordio e l'indagine sul PCPDS, l'ANM fu stalinista, come dice Nordio a proposito delle indagini che fece ai tempi. Ora, l'Unità invece si occupa del film che è stato censurato. Il bacio vietato dei cowboy, censura Rai, sale la protesta. Scene d'amore tagliate, Brokeback Mountain, il film Leone d'Oro 2005 e Oscar. Curioso fenomeno di sparizione in casa Rai. Dal film I segreti Brokeback Mountain, andato in onda ieri l'altro, sono scomparse alcune scene, guarda caso quelle dove i due uomini facevano l'amore, e questo sì, è quello che, su quale si discuterà anche nelle prossime ore. C'è anche un articolo, tra le cose, di Sgarbi, Vittorio Sgarbi, sul Giornale, che dice, insomma, non si doveva tagliare, ma adesso è ancora più sbagliato replicare. Questa è la tesi di Sgarbi. Infine, il Riformista, che cita il caso di corruzione statunitense. Il Mariolo di Obama, scandalo all'italiana, il procuratore della CIA Gate incastra per corruzione il leader del partito dello Stato, cercava di vendere il seggio lasciato libero dal presidente. Beh, davvero incredibile questa cosa. Sul quotidiano Il Riformista, intanto l'onda travolge pure la Guzzanti. Prima era toccato a Beppe Grillo, ora a Sabina Guzzanti. Tempi duri per i comici antagonisti e politicamente schierati, costretti a registrare sulla propria pelle che c'è sempre qualcuno più a sinistra e incazzato di loro, scrive Michele Anselmi. A Senigallia, col suo vilipendio tour, l'attrice si è ritrovata al centro di un caso di contestazione, con strascico di polemiche locali, per via di un comunicato che il comitato di lotta, composto da studenti, insegnanti e genitori, chiedeva di leggere in teatro a inizio spettacolo. Questo il Riformista. Come vi dicevo, il Riformista riporta Maria Teresa Cometto dagli Stati Uniti, invece questa notizia, questa cosa della vendita addirittura del seggio del presidente. Il vento della corruzione ha colpito il Partito Democratico a Chicago e ha toccato anche indirettamente il presidente eletto Barack Obama, che nelle città ha iniziato la sua lunga corsa per la Casa Bianca, che ieri ha dovuto smentire un suo coinvolgimento nello scandalo. Ieri mattina è stato arrestato Rod Blagojevich, il governatore democratico dell'Illinois, lo stato in cui Obama ha fatto il senatore per tre mandati, dal 97 al 2004, di cui nel novembre 2004 è diventato il rappresentante del Senato degli Stati Uniti. E proprio il posto da senatore a Washington, da cui Obama si è dimesso appena eletto presidente, è al centro delle accuse che hanno portato in galera Blagojevich e il suo capo dello staff John Harris. Spettava infatti al governatore decidere con chi sostituire Obama senza ricorrere a nuove elezioni, e Blagojevich ha semplicemente messo il cartello in vendita sulla nomina del senatore, ha spiegato il procuratore generale USA Patrick Fitzgerald. Questo sul Riformista. E ancora Claudio Mancina, che scrive: giustizia, se non ora quando? Cioè, se non ora quando la riforma? Il Riformista poi, a pagina 16, pubblica il discorso di Craxi sul finanziamento ai partiti, il discorso che Craxi pronunciò in Parlamento, che fece molto scalpore, perché insomma Craxi diceva: chi è senza peccato, diceva, siamo tutti corresponsabili. Un discorso che oggi è stato rimesso in circolo perché si ritiene che sia di grande attualità, dice Pubblichiamo Antistrace, il discorso sul finanziamento dei partiti che Bettino Craxi pronunciò nell'Aula di Montecitorio in occasione del dibattito sulla fiducia al governo Amato il 3 luglio 92. Siamo proprio all'inizio di Tangentopoli, così come abbiamo fatto domenica scorsa pubblicando l'intervista di Enrico Berlinguer a Scalfari. E qui c'è insomma tutto il discorso integrale di Bettino Craxi nel 92. E con questa segnalazione dalla Riformista io ho concluso il mio tempo, quindi vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento a domattina.